Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi, sono le 13:33 minuti e 39 secondi, quella che state ascoltando è la seconda edizione di Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Era il 22 febbraio 1980 e a Roma non faceva freddo. Un giovane esce da scuola, percorre la strada che lo separa dalla sua abitazione. Pensa lui che sia una giornata normale come tante, e invece sarà il suo ultimo giorno di vita. Quel giovane era Valerio Verbano, uno studente con il pallino della fotografia e della controinformazione. E sua madre, Carla Verbano, 31 anni dopo l'omicidio di suo figlio, parla così a Radio 24, ai nostri microfoni, dopo la riapertura dell'inchiesta che vede ormai due indagati. Io sentii suonare alla porta, andai a aprire e vidi tre figure. Uno mi rivoltò, si mise il passamontagna in viso e portò in camera da letto. In camera da letto c'era mio marito. Ci fu un po' di lotta, ma poi mio marito si arrese, anche perché era malato con le gambe, si arrese e lui venne steso sul letto, legato e imbavagliato. Stessa sorte toccò a me. Noi stammo lì legati e imbavagliati per più di un'ora e un quarto, quasi un'ora e mezzo. Io mi auguravo che mio figlio non venisse a casa, che avesse un incidente con la vespetta, purché non venisse o che fosse invitato da amici. Invece alle 2:10 sentiamo aprire la porta. Ci fu una lotta furibonda, perché Valerio fin dall'età di 8 anni faceva judo, poi aveva fatto karate, perciò si difese, levò due passamontagna, un cappellino e un passamontagna a questi ragazzi, le disarmò uno, ma a un certo momento sentimmo uno sparo che però andò nel muro e poi un secondo che prese Valerio. Io nel frattempo ero riuscita a slegarmi, a buttarmi giù dal letto e arrivare nell'ingresso in tempo per vedere mio figlio steso con la testa sul divano e le gambe per terra, che gli usciva un rivolo di sangue dalla bocca e piano piano sussurrava aiuto, mamma, mamma, aiuto, e io non ho potuto dargli nessun aiuto. È morto così, quando è venuta l'ambulanza hanno detto che è morto in ambulanza, ma per me ormai non capiva più niente, già meno male che ha sofferto poco. Sono arrivati lì gli inquilini qui vicino, ci hanno slegato, ci hanno levato il bavaglio dalla bocca, tutto. Saliva un signore che stava al piano sopra di me, fece l'identikit di due di questi, quello che stava in camera con me e che avevo un attimo intravisto quando ho aperto la porta, che era un biondo con i capelli biondi ricci, e un altro piccoletto che ogni tanto entrava nella nostra camera e chiamava il compare, fratello come va? Va tutto bene, e lo mandava via. L'altro e il terzo non l'avevamo visto, e non l'ha visto neanche questo signore che saliva le scale, perché gli è sfuggito. Ma fece l'idea, andò in questura, fece l'identikit di D2. Alle 8 di sera ci telefonò per dirci che era andato in questura e aveva ritrattato tutto. Sai, Verbano, disse mio marito, io ho un figlio, ho paura. Dunque questo signore aveva il pallino della casa, perché noi stiamo nelle case del Ministero degli Interni. Comunque ce le dovevano dare a riscatto. Morale che dopo un mese questo signore se n'è andato qui di casa. Sono rimasti i trasportatori, dove ci hanno detto dove trasportavano i mobili. Un appartamento che lui aveva comprato e pagato in contanti. Cioè, quindi lei ipotizza con questo racconto che questo testimone importante fosse stato in qualche modo avvicinato da qualcuno e fosse anche pagato la sua ritrattazione. Certamente, fu contattato, la sera magari mi dissero ritratta tutto, cosa vuoi, lui aveva il pallino della casa, gli avrà detto datemi una casa e la casa gliel'ha andata, perché lui non poteva, un semplice impiegato, non poteva certamente pagare un appartamento del genere. Alla luce di quello che è accaduto invece in questi ultimi giorni, cioè la riapertura del caso della morte di suo figlio. Quell'identikit può corrispondere ad alcune delle figure che sono state indagate per la morte di suo figlio? Le persone indagate oggi non so chi sono. L'identikit credo che l'abbiano invecchiato. Abbiano invecchiato l'identikit per paragonarle alle persone che sono oggi. Io questo non lo so chi sono. Mi hanno detto che uno è uno stimato professionista e l'altro è all'estero in Brasile, sembra, ma non so i nomi. A me non hanno fatto vedere nessuna fotografia. Sono venuti il magistrato e il tenente colonnello De Ros a parlare con me. Mi hanno detto che hanno preso a cuore la faccenda, che è un anno e mezzo che ci lavorano. Dopo è venuto fuori sul Corriere della Sera che hanno ritrovato il dossier, che è 31 anni che lo stiamo cercando da tutte le parti. È venuto fuori, ma dove? Perché l'avevano occultato? Il dossier, perché Valerio Verbano aveva una grande passione che era la fotografia e un'altra grande passione che era quella che veniva chiamata negli anni 70 la controinformazione, cioè lui realizzava come una sorta di inchiesta su quello che era la destra eversiva in quegli anni e aveva incrociato dunque alcuni dei nomi conosciuti, altri meno conosciuti e soprattutto quelli conosciuti diventati poi tristemente famosi, mi riferisco per esempio non so ai fratelli Fioravanti piuttosto che ad Alibrandi. E quindi adesso è stato ritrovato il famoso dossier che era sparito per 31 anni. Dunque, non era quello, perché deve pensare che Valerio, assieme a altri 6 o 7 compagni, erano 6 o 7 che scrivevano i dossier, perciò penso che ci saranno anche in giro delle altre copie. Quel dossier che hanno trovato o è una fotocopia del dossier che aveva originale Valerio, che presero a casa, o è un altro, perché l'originale furono strappate un mucchio di pagine, perché quando a me lo fecero vedere era ridotto un quadernetto. Questo qui deve essere stato fotocopiato dall'originale prima che l'originale venisse portato via dai carabinieri o dai magistrati o non so da chi. Questo dossier comunque è compilato da suo figlio? Sì, perché c'è la calligrafia di mio figlio, da alcune calligrafie che hanno fatto vedere sul Corriere della Sera ho riconosciuto quella di un altro amico che purtroppo è morto, 2 sono morti e gli altri non so chi sono, ma uno so chi è, però non si ricorda più niente dei nomi che erano scritti lì, perché sa 390 pagine, pensi un po' quanti nomi ci sono. Comunque è quello. Lei che cosa si aspetta adesso dalla giustizia? Adesso mi aspetto che venga fuori la verità, perché sono 31 anni che combatto. Mio marito è morto nell'88 dalla disperazione e fino allora, fino al 2005 noi non abbiamo mai fatto un'intervista, mai fatto niente. Nel 2005 si è risvegliato tutto e mi sono trovata sola a combattere questa battaglia che io mando avanti parlando con le scuole, nei centri sociali, nei teatri, dove è possibile parlare di mio figlio, perché voglio che la storia rimanga viva, perché è stata una morte troppo atroce. Guardi, qui le 2 morti più atroci che ci sono state quelle dei fratelli Mattei, morti bruciati, per carità, una morte assurda proprio così, e quella di mio figlio, perché noi siamo stati qui legati e imbavagliati 1 ora e mezzo a patire le pene d'inferno. Perché non l'hanno ucciso fuori per la strada? Perché sono venuti in casa così con questo agguato? No, per carità, io voglio giustizia, la pretende Valerio, la pretendo io, perché sto lottando. Io ormai fra 2 mesi avrò 87 anni, sono tanti, ce la faccio ancora, finché potrò andrò avanti, ma voglio sperare che questo magistrato e questo tenente colonnello riescano a fare qualcosa. Ho fiducia finalmente. Sono le 13:42 minuti e 58 secondi, era la voce e la testimonianza straordinaria di Carla Verbano, di una donna che cerca giustizia per la morte del figlio, e questa giustizia sembra avvicinarsi, anche se in Italia le cose funzionano così, 31 anni dopo l'omicidio di suo figlio. Era Italia in Controluce, la seconda edizione, cercateci su Facebook, su Twitter, nel nostro blog, su radio24.it, comunicate con noi via mail controluce@radio24.it. domani alle 6:30 su Radio 24.